I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Perché i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore? Perché incontro ancora troppe persone, troppi amici che mi dicono: io non capisco niente di economia, non è possibile. Non è più possibile, perché l'economia si occupa di noi da mattina a sera e tutti noi ce ne accorgiamo a pranzo, magari in casa, in famiglia, quando facciamo i conti, la sera, a cena, quando constatiamo che il nostro figlio ancora non ha trovato un lavoro, oppure, cosa ancora più amara, siamo costretti a scoprire che qualcuno di noi ha perso il lavoro. Io non credo che l'economia sia una scienza triste. Ho detto tante volte che i numeri hanno un cuore e hanno un'anima, e soprattutto credo che l'economia possa e debba essere un ponte tra i numeri e le passioni, le tante passioni che segnano la vita di un uomo e di una donna. E perciò è importante sapere che se l'inflazione è troppo alta è brutta, ma se l'inflazione è troppo bassa è bruttissima, e che forse quella giusta assomiglia alla minestra di ricino d'oro, cioè non è né calda né troppo calda né troppo fredda. È importante capire perché un paese cresce e perché un altro paese non cresce, perché aumentano i disoccupati in Italia. Donna Bondio avrebbe detto: che cos'è questo spread? Oggi penso che siano in pochi a non sapere ancora che cos'è lo spread. Bene, i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, vi raggiungeranno ovunque. Perché vi raggiungeremo con Radio 24, vi raggiungeremo con Radio Dimensione Suono, vi raggiungeremo con il canale digitale terrestre di Radio Dimensione Suono e con la web TV del Sole 24 Ore. Vi raggiungeremo con i siti di Radio 24, del Sole 24 Ore, di Radio Dimensione Suono, vi raggiungeremo sulla vecchia carta stampata, che è quella del Sole 24 Ore, bandiera e anima di questo gruppo. Insomma, lo avete capito, non vi lasceremo più liberi. Il posizionamento di RDS, voglia di, è sempre sintonizzato su quelli che sono i bisogni degli utenti ascoltatori, ovvero degli italiani. In questo caso si va a declinare nel voglia di dare un senso alle cose. Quello che è il nostro format storico, 100 secondi, si avvarrà delle migliori firme del giornalismo del Sole 24 Ore di Radio 24 per approfondire quei temi che entrano e impattano quotidianamente sulle tasche di tutti noi. È un'occasione unica per un ecosistema altamente innovativo che attraverso la sua sincronizzazione, la sua cross-medialità, rafforzerà tutti quelli che sono i contenuti in una maniera sinergica e che daranno un'opportunità straordinaria a quelli che sono i nostri partner commerciali. La possibilità di avvalersi della firma e dell'ecosistema in termini di domination solo per quello che è il lancio. In 3 settimane arriveremo a circa 120 milioni di contatti, quindi una sincronizzazione di onda d'urto veramente importante. RDS, Radio 24 e il Sole 24 Ore e la multimedialità dei siti insieme per il migliore impatto di comunicazione senza precedenti.